Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Quattro mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Guajira para el recuerdo. Non ho nessun commento da fare, buona serata e buon lavoro. Con del sol de tu bravura le puso cerco alla muerte. Sindaco, non ci dice niente. Buona serata e buon lavoro. Da entrañable trasparenza. Bisogna ancora rimettere, ancora per gli scontrini. Il concetto di non si commenta è piuttosto semplice. Cordialmente, serenamente, non è cambiato nulla. Quindi il sindaco non ritira le sue, cioè ritirerà le sue dimissioni. Se non è cambiato nulla, non è cambiato nulla. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Mi hanno fatto, io ho chiesto di vedere il campo da golf perché ho nel mio ufficio una foto di due importanti giocatori di golf, che non erano due giocatori di golf ma erano due significative figure della vostra storia, che giocano appunto a golf qui davanti, e mi è stato detto sì, questo è il campo dove hanno giocato Fidel e il Che, ma è anche il campo dove ha suonato Zucchero. Io non l'ho capita, ma non lo so, non l'ho capita benissimo. Boh, non lo so. Comunque, comandante Che Guevara è Ignazio Marino, comandante Che Guevara è anche un po' Renzi, è a Cuba. Marino che non si sa che fa. Si sono incontrati a casa del vice sindaco Causi, lui e Orfini. Boh. Che farà Ignazio Marino? Giorno 8 della resistenza mariniana. Resisti, Ignazio! Resisti! Dai, è per vedere l'effetto che fa, deve resistere, assolutamente. Il nostro Che Guevara moderno. Ma chissà che farà. Certo che oggi già, ragazzi, ci sono delle notizie, un paio, vabbè, questa roba della carne c'ha un po', come dire, come definire questa vicenda della carne? Basta! Anche perché c'è la soluzione alla carne, ce l'ha data l'Unione Europea, votato sì a Strasburgo. Basta bistecche, wurstel, basta una bella costata. Adesso arriveranno larve, mosche, bachi da seta, insetti e contorno di alghe. Basta! Basta! Basta! Ecco, basta sta storia della carne che non si può più mangiare, non lo so. Però poi, a proposito di comunisti e di Che Guevara, ora avete letta quella di Varoufakis, il comunistone Varoufakis, che è venuto da Fabio Fazio. Sapete quanto ha preso per 22 minuti di intervista? 24.000 euro, più di 1.000 euro al minuto è il cachet del comunistone Varoufakis, con viaggio in prima classe dalla Grecia, vitto, alloggio, tutto pagato. E a lei? 6:34 minuti, questo è 24 mattino, eh? C'è Lorenzo Nespoli in redazione, c'è il nostro Peter Bescapè in regia, c'è il nostro direttore che, ecco, chiariamo subito, qui invece gli ospiti, qui gli ospiti. E il Milan la sblocca. C'è il Milan che la sblocca, vabbè, il Milan che vince. E qui chiariamo, i nostri ospiti vengono a gratis, vero direttore Umberto Brindani, direttore di oggi, non solo a gratis, si devono pure svegliare. Non solo a gratis, ma pure prima dell'alba. Pure, sì, a gratis e devono svegliarsi così, quindi proprio è una tortura più che un ospite. Non abbiamo capito niente, Alessandro. Varoufakis è mio nuovo idolo. Varoufakis, 24.000 euro per 22 minuti di intervista. Prima classe, first class, il viaggio first class, neanche business, first class, ragazzi, prima classe. E poi siamo stati gli unici che l'hanno pagato, perché... La cifra è venuta fuori perché l'ha messa lui sul, l'ha messa suo, lui blog. Sul suo blog, è vero. Invece dalla BBC non niente, solo il viaggio, manco, ovviamente. Manco una sterlina. Manco una sterlina, la BBC manco una sterlina. La RAI, capisci che è 22.000 euro. No, per la verità ha pagato la Endemol, cioè la casa di produzione. Comunque, insieme a Umberto Brindani c'è la nostra, c'è la nostra, c'è la nostra! La nostra, la nostra, l'Aurora. Buongiorno, buongiorno Milan. Un caro saluto a te, un caro saluto al direttore, agli amici di Radio 24, carnivori e non. Eccoci. E quelli di Radio Padania Libera, te la sei dimenticati? Quelli sono sempre nel mio cuore, lo sai. Pensavo non ci fosse più, che fosse chiusa, che Salvini vi avesse smontato tutto. Ah, ti piacere, sei un po' come il premier turco, cioè te ami un po' così. No, come? Ah, no? Mi paragoni ad Erdogan, no? Sei un po' come Erdogan, sperare così che le voci dell'opposizione chiudano. Ma per carità, un po' un Erdogan. Ma per carità, lunga pezzi vita. Di Erdogan ce ne sono in giro tanti. Pensa che non penso di fare mistero se svelo ciò che Salvini mi ha detto privatamente 10 giorni fa. Mi ha detto: piuttosto che chiudere Radio Padania, veramente mi metto lì, mi autotrincero. Ma è lui che decide, quindi voglio dire. Comunque. È un combattente, quindi è l'unica voce dell'opposizione, libera. Un'emittente radiofonica che forse scomoda qualcuno, e libera, per Matteo libera. Salvini è vitale e essenziale per la comunicazione del suo movimento. Va bene, va bene. Comunque apriamo qui il Parlamento, dai. Io non vorrei però diffondere troppo queste notizie di cachet, di Varoufakis. Non vorrei appunto che gli ospiti del Parlamento poi si montassero la testa. Tu Aurora, non so... Non lo so, cosa ti devo dire? Ti va bene svegliarti antico, gratis antico, ancora? Sì. No, ma figurarsi quello, guarda, sono nata povera, non è quello, non mi muove l'invidia sociale verso questi ricchi marxisti. No, diciamo che scemo non è chi mangia torta, ma chi fa torta, dice antico proverbio bulgaro. No, nel senso, non è mica colpa del Varoufakis, ragazzi. No, il Varoufakis è il tuo amico fazzista lì, è Fazio, che è la RAI. Ma non è quella amico, per cui dovremmo pagare mio. Il canone, se no veniamo ovviamente puniti. Sì. Eccola, è colpa della RAI. A proposito di canone, perché è un tema che anche su oggi va sempre di moda. Il canone della RAI è giusto non pagarlo, Brindani? In qualche caso, oppure già l'altra volta ci hai detto che non sei capito bene se lo paghi. No, alla fine ho capito che lo pago, ma sai, il problema è complicato, perché dovremmo poter pagare e avere in cambio un autentico servizio pubblico, cosa che invece spesso non è, insomma. Ah, ecco. Perché poi sai, a proposito di cachet, è vero che Varoufakis è stato pagato dalla Endemol, che è una società esterna alla RAI, alla quale la RAI affida, dietro congruo pagamento, la realizzazione della trasmissione. Però è anche vero che dentro la RAI ci lavorano migliaia di persone e si dice che insomma dovrebbero poter lavorare un po' più loro e un po' meno le società esterne. E lo stesso Fabio Fazio, non è che prenda uno stipendio da poco. Pare 2 milioni, così almeno scrive libero, 2 milioni di euro. Però in questo io non sono anch'io come Aurora per l'invidia sociale, cioè beato Fazio e chi se ne frega, cioè nel senso, o meglio, chi se ne frega, beato lui se prende 2 milioni di euro, non lo so. Il problema, Alessandro, scusami se ti interrompo, secondo me è un altro, cioè è questo commercio di interviste che non riguarda solo in questo caso Varoufakis, ma è venuto fuori anche il caso di Mediaset che paga le interviste e gli interventi dei parenti delle vittime mediatici, no? Sì. Poi guarda, io ti posso testimoniare dalla mia postazione che esiste un traffico, un commercio di pagamenti per dal gossip ad altre storie. Tutti chiedono soldi. Io mi sono dato la regola qualche anno fa di non pagare mai e quindi devo a volte rinunciare a interviste, pezzi. Perché uno chiede soldi. Esclusive. Uno si deve dare una regola, no? Rinunci, perché alla fine credo che un'intervista pagata abbia meno valore di un'intervista. No, ma sono d'accordo, cioè, e soprattutto vale per la TV, vale per la TV i cachet per andare a dire delle cose. Cioè, voglio dire, se uno invece di 24.000 euro era pronto a dare 40.000 euro, non so, Varoufakis evidentemente andava in un'altra trasmissione, questo è il dato di fatto, cioè non è più tra virgolette giornalismo, non è più ho convinto Varoufakis a venire da me, grazie al piffero, cioè l'ho convinto perché gli ho dato 24.000 euro, questo è. Comunque Aurora, tu niente, vieni sempre qui gratis, sono contento. Ma ho imparato nella vita a fare le cose per passione, non dietro compenso. Brava, quello è un lusso. Infatti ero distratta, mi sono persa qualcosa, che sto guardando le foto del nostro Presidente del Consiglio in gita lì nell'America Latina. Aurora è così, è sempre butta la zampata nel momento di maggior distrazione. Vabbè, sul classico turista italiano Machu Picchu, però qua che fa jogging a La Habana con la maglia della nazionale di calcio sulle spalle, c'è cioè il numero 10 della nazionale di calcio. Sì, è vero, è vero. Ha messo la maglia numero 10. Ma davanti c'è un cubano che corre dietro lui e mi sono un po' distratta. E tu guardavi il cubano, di la verità. Effettivamente il maschio Brianzolo. Però il confronto è impietoso. Anch'io l'ho vista. C'è questa foto di Renzi un po' che arranca e c'è un cubano proprio statuario a fianco che lo sorpassa. Di la verità, il confronto è un po' impietoso. C'è un giudizio estetico proprio. Sì, no, nessuna valutazione etico-morale. Possiamo dire che in quella foto è impresentabile. ecco, certo che c'è da dire che sentitelo qui De Luca. Ieri l'abbiamo fatto sentire da Lilli Gruber. Non solo ha detto è impresentabile, per me Rosy Bindi è impresentabile. Ha detto proprio la sua esistenza. Proprio contesto, io la metto la contesto. Sentite De Luca, è impazzito. Ma lei ricorda alla Bindi che ha mal applicato quel regolamento? Al di là della dinamica politica. Alla Bindi la sua esistenza per la verità, ma come è possibile? Aurora, di almeno qualcosa tu, dai, una solidarietà femminile. Quando le accuse sessiste arrivano da sinistra sono sempre tollerate dalle pseudo indignate, le professioniste dell'indignazione. Effettivamente quando lo disse Berlusconi ci furono le magliette, se non ora quando, mobilitazione del paese. A sinistra è così, si è legittimato a far tutto. Tu hai questa sorta di patente di legittimità quando sei di sinistra, puoi pigliare cachet milionari, puoi insultare le donne. Superiorità antropologica. Che dici, Umberto? Berlusconi ha anche un'altra caratura rispetto a De Luca, Ho capito, anche... però tra l'altro è il suo stesso partito, cioè dici perché era presidente del Consiglio allora Berlusconi. Insomma, voglio dire, sono scandali internazionali, quando parlava Berlusconi, la famosa battuta, non si è mai capito se era veramente detta sulla Merkel. De Luca, anche se il nostro amico Cruciani lo vorrebbe come governatore del pianeta. Del mondo. È abbastanza adorabile quando parla e poi dice delle robe pazzesche, però si piace molto. Si piace molto. Che è uno che si piace molto, si parla parla addosso, è narciso, e quindi partono delle definizioni che sono totalmente assurde. Sì, sì, sì. Comunque, per tornare a Renzi, secondo me Renzi spera, vorrebbe, sogna di rimanere in Sud America ancora un qualche sì, settimana. Ma credo che sia in Italia, in realtà è arrivato, gli è toccato tornare. Oggi forse a Torino a un convegno dell'ANCI, cioè capisci, da Cuba a Torino a un convegno dell'ANCI, una roba che non va a Roma, vero? Troppe rogne il ragazzo si tiene lontano. Che dovrebbe dire a Marino? Ma voi l'avete capita questa? No, lui sperava che fosse un Enrico Letta qualunque, così da impallinare in una sera e via. Invece Marino Ugo non molla. Adesso non so, bisogna capire, magari ha chiesto in cambio qualcosa, breve molla, sarà una trattativa in corso. Però il chirurgo non so, più duro di un Enrico Letta qualunque. Hai capito. Effettivamente. No, il chirurgo vuole che Renzi dica qualcosa. Renzi ha incaricato il povero Sabino Orfini di occuparsene. Qualcuno dice che forse andrà all'aeroporto ad attenderlo. Sì, sì, sì. Ieri circolavano le notizie più clamorose, tipo Marino che va in aeroporto. Un po' come faceva col Papa. Sentite qui. No, non c'è la frase vado in aeroporto. Però insomma, la questione è questa. Ieri si era sparsa questa notizia di un Renzi pronto ad andare in aeroporto a incontrare, sì, di Marino, andare a fare un blitz proprio, a dire ma perché non mi parli? Però io dico, ma cos'è, una questione di principio? Cioè adesso Brindani, ma cosa vuol dire? Cioè, Renzi non vuole intervenire e Marino dice deve intervenire, ma che è? C'è una questione di orgoglio. Sì, come si diceva una volta, vediamo chi ce l'ha più lungo, no? Perché sì, esatto. La partita che sto cercando. I leghisti direbbero chi ce l'ha più duro. insomma. Ride, la Lussana ride. Chissà, ma perché mi evochi una stagione stagione politica. Per carità. È una questione di dire chi non molla, esatto. Comunque si sono visti ieri, non si sa Marino se molla oppure no. Secondo me ritirerà poi le dimissioni, ne vedremo delle belle. Oh, mi dicono che il traffico non c'è. C'è, salta il traffico, c'è un piccolo problemuccio. Vabbè, mandiamo un attimo. Beh, allora ci sintonizziamo su Radio Padania, magari il traffico lo danno, no? Regolarmente. No. Stai con noi, anche perché tra poco, dopo la segreteria telefonica, ti devo far sentire, e devo far sentire gli ascoltatori, una canzone che secondo me a te piacerà, a te prenderà così allo stomaco, tra poco. Sì, Milan, prova a formarti un attimo con il signor Renzi, che vuole mettere la tassa della TV sulla bolletta, ma è 100 euro punto o 100 euro più IVA del 22%, così ci fotte anche il 22% e la tassa praticamente costa di più. Grazie. Ciao Alessandro, sei l'unico, dico, giornalista della radio e della televisione che pronuncia correttamente la parola Würstel. Sveglia, sveglia Milan, che stamattina ti sento un po' rimbambito, sveglia! Signor Milan, mi hanno spiegato che lo deficit vuol dire che c'hai un debito. Mannaggia. Ma allora, per favore, lei e lo signore Giannino, che siete istruiti, mi potete spiegare come si fa a risanare lo debito che ci avemo con una manovra finanziaria in deficit, facendo altri debiti? Se io vado giù la banca e gli dico che pago un altro debito che c'ho, mi pigliano a carcere nel sedere. Me lo spiegate come funziona? Non si capisce tanto bene. Grazie. Non lo so, il deficit Angelino, il nostro contadino di Terni. Eccola qua la foto di Renzi sorpassato da un cubano statuario sul lungomare dell'Havana. Capito, l'occhio della Lussana, allora siamo con Aurora Lussana, come il suo portavoce, che è pagato per pubblicare, certo, che pubblica l'album fotografico. traffico della gita del nostro premier nell'America Latina. E siamo anche con Umberto Brindani, direttore di Oggi. Eccola qui la frase del giorno. Noi lo avremo ospite alle 8.40, Raffaele Cantone, presidente dell'autorità anticorruzione. già gongola Aurora, perché vabbè. Una persona autorevole. Sia proprio nel momento difficilissimo, nel momento nel quale purtroppo la capitale reale non sta dimostrando di avere forse quegli anticorpi morali di cui ha bisogno. Milano è la capitale morale, quindi Roma no, Roma no. Avevo preparato anche la canzoncina che secondo me è Aurora. La conosci quella di Alberto Fortis? Secondo te non conosco Alberto Fortis. Io vi odio tutti quanti, brutta banda di ruffiani ed intriganti. Un po' dura sta canzone. Io vi odio a voi romani, eh. Quante volte l'hai cantata, Aurora, in vita tua? Preferisco Vincenzo, io ti ammazzerò. Però no, anche questa è una canzone straordinaria. Comunque se lo dice Raffaele Cantone, che è il presidente dell'autorità anticorruzione, insomma noi ci fidiamo. Però opposizione. Che dice? Aurora, forse non dovresti gongolare tanto, perché quella frase Cantone l'ha detta guardando e sorridendo verso Pisa Pia, che non è un sindaco leghista. Ma è ovvio che Cantone ha ovviamente espresso delle parole che secondo me hanno spessore politico, che comunque non dovrebbero essere espresse da chi ha un ruolo così sovraistituzionale come il suo. Sì. Ecco. Sì, ma comunque sì, era un elogio a Pisa Pia, ti ha detto. Che è una valutazione politica, che chi ha quel ruolo lì dovrebbe essere un'autorità amministrativa indipendente, quindi non si è posto come indipendente. Ma sai cosa colpisce nelle parole, cosa mi ha colpito nelle parole di Cantone? Che è vero che è un giudizio politico, meglio, lui ha anche tentato di rubricarlo a giudizio politico, ma in realtà è un giudizio morale, cioè lui ha usato la parola anticorpi morali, che Roma non avrebbe, no? Quindi è un giudizio più pesante di un giudizio politico, perché sembra, poi non so se questo fosse nelle intenzioni di Cantone, sembra un giudizio sui romani, quasi velato di razzismo, d'altronde lui è napoletano, è campano, quindi insomma ha messo insieme un po' tutto, cioè Roma non ha gli anticorpi, Milano la capitale morale, detto da un napoletano, capisci che abbiamo messo insieme tutta l'Italia, che devi fare? Dovrebbe fare più che altro il mister anticorruzione, basta, più che fare queste valutazioni, però insomma sì, bisogna prenderne atto di quello che bisogna dice. Pensavo ti inorgoglisse questa cosa, Milano capitale morale, ma tu sei bergamasco, di Bergamo non ha detto niente, stai tranquilla, di Bergamo e Cantù non ha detto nulla, non è che Raffaele Cantone si può esprimere su Bergamo e Cantù. Tra l'altro devo segnalare che un ascoltatore mi ha scritto via sms: pago io la presenza di Aurora, e quindi abbiamo anche chi ci paga il cachet, pur di 24.000 però costa. Accidenti, a Radio 24 andrebbe anche, sarebbe azzeccato. Ma devo fare sentire il parere di un editoriale di due uomini, grandi esponenti della cultura italiana, che si sono espressi su Matteo Salvini. Si tratta di due cantanti tra i preferiti di Aurora Lussana insieme ad Alberto Fortis, vale a dire J-Ax e Fedez. Brindani li conosci, J-Ax e Fedez, gli uomini più tatuati del mondo, soprattutto Fedez. Eccoli qui su Salvini. Salvini ci cita in almeno 20 discorsi comizi, a me e a te. Salvini è un tour promozionale incredibile, cioè ho fatto la conferenza, mi ricordo, presentando Sorciverdi, dopo 5 minuti lui ha già ripreso tutte le notizie. Ogni volta che ci dice che siamo pagati dalle multinazionali, lui è pagato dagli italiani, un europarlamentare sempre in televisione a fare un cazzo dovrebbe stare in Parlamento in Europa. Eccolo qui, con applausone, era partito un applausone di 5 minuti su questa frase. Cara Aurora, ti abbiamo rovinato. Così, no, di solito gli artisti contestano il governo più che le opposizioni popolari come la Lega Nord, così i nostri artisti sono un po' così, invece va bene, la prendono con un movimento come la Lega, un movimento che devi fare. Che opposizione al governo, artisti un po' però così. Basta dire che fate l'opposizione. l'opposizione, dai, del governo della Lombardia, del Veneto, insomma, non è che siete insomma. Proprio quello sì, siete quello stati sì. Al quello governo lì, quello lì sì, beh, buon governo quelli del Lombardo, ha ragione il nostro direttore, beh, uno arriva in Lombardia, appena entra in Lombardia entra in Veneto, Brindani, cosa ti capita? Dici proprio strade pulite, tutto a posto, tutto perfetto, che bello il governo della Padania, no? Ci si difende da soli, sì, è proprio un altro, sì, è un altro mondo. Chi è capace si difende da solo, uno che è imbelle e vigliacco non si difende, non difende né se stesso, la sua famiglia. Eccola, no, mi avete introdotto. Ci sono lupi, ci sono gli agnelli, ci sono, grazie a Dio, i cani pastori, quelli che impediscono che gli agnelli vengano sbranati. Eccola, dai lupi. Ma avete introdotto l'argomento del giorno quando ho finito, a 10 secondi, vuoi darci la ricetta in 10 secondi, Aurora? Ah, sì, è per forza, sai cosa sto facendo? Siccome qui più nessuno mangia la carne e gli insaccati, sì? C'è questa psicosi collettiva, faccio i mondeghili, le polpette milanesi. Ah, è una meraviglia. Le polpette milanesi e non di insetti e di alghe e di larve e di bachi da seta. Grazie Aurora Lussano, Umberto Brindani, vi saluto, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da... Scegli Pantera col TH, scegli l'IRT di Infracom Italia per competere nel mondo. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci cari ascoltatori, le 7:19 minuti, pronto a leggere i giornali. Più avanti invece con Oscar Giannino avremo ospite Raffaele Cantone, colui che dice Roma non ha più gli anticorpi e Milano è la capitale morale. Poi lo ha detto sfumando, dicendo non è una critica ma un pungolo a Roma. Comunque Raffaele Cantone sarà ai nostri microfoni, eh? Parliamo del caso Marino dai giornali, del caso Varoufakis da Fazio, insomma tanti temi. Allora andiamo a sfogliarli questi quotidiani. Giovedì 29 ottobre. Anche ottobre se ne va e allora il Sole 24 Ore apre sulla Fed che prepara la stretta anche i bot sotto zero, questo è il titolo di prima pagina, mentre per il Corriere della Sera torna la fiducia nella crescita. La Banca d'Italia prevede l'aumento del PIL all'1% e famiglie e imprese dicono recessione alle spalle, questi sono i dati della Banca d'Italia. Così anche per l'Unità, bentornata fiducia, è l'Istat che certifica ottimismo di consumatori e imprese. Per Repubblica, eccolo qui Cantone, è Milano la capitale morale, Roma senza anticorpi, titolo di prima pagina. Per La Stampa, corruzione, Roma senza anticorpi, è questa frase di Cantone. Il Messaggero, Renzi scarica Marino, non tratto. Mentre la vicenda Varoufakis, ospite di Fabio Fazio in Rai per un compenso di 24.000 euro per 22 minuti di intervista, dunque più di 1.000 euro a minuto, eccolo qui, i tagli Rai, 24.000 euro per Varoufakis da Fazio, è il titolo di Libero, oppure il giornale 1.000 euro al minuto a un comunista. Il canone serve a questo? Si chiede il giornale, mentre il giorno lo mette in prima pagina. 1.000 euro al minuto, questa è la cifra che colpisce. Vedremo altre aperture, voglio partire subito con la vicenda Marino, che ormai è una telenovela giunta alla puntata numero 8432 e non è finita. Ieri c'è stato un vertice di 4 ore con pasta alle sarde, vino Chardonnay, fa sapere il Fatto Quotidiano, a casa del vice sindaco Causi, che ha tentato, è riuscito se non altro a mettere faccia a faccia dopo ore e giorni di muro Marino, sindaco di Roma, e Orfini, presidente del PD e commissario del PD a Roma. Ma fa sapere il Corriere, Marino fallisce l'ultima trattativa, resta lo stallo anche dopo il lungo faccia a faccia tra il primo cittadino e Orfini. E allora il sindaco che aspetta un segnale da Renzi, ma Renzi da Cuba ha detto se ne occupa Orfini e la posizione del PD autorevolmente espressa da lui, e a lui va il mio totale sostegno. Alla fine di questa dichiarazione Marino ha capito che Renzi non farà nulla. E allora, racconta Giovanna Vitale su Repubblica, resta la convinzione, che per la verità ci ha anticipato in qualche modo anche l'assessore Cattoi ieri qui ai microfoni di 24 Mattino, quando ha detto: credo proprio che Marino ritirerà le dimissioni perché vorrà parlare in consiglio comunale. Repubblica dice che dovrebbe ritirarle entro domenica, domenica è l'ultimo giorno utile, deve farlo entro il 2 novembre, e poi forse tra il 4 e il 5 novembre parlerà in consiglio comunale, proprio in concomitanza con l'inizio del processo Mafia Capitale, dove Marino andrà con la fascia tricolore. Questo racconta Repubblica. Tra l'altro l'assessore Cattoi è uno dei due fedelissimi rimasti ormai con Marino, insieme a Roberto Tricarico, viene dato da Repubblica, Alessandra Cattoi, e infatti erano presenti loro due insieme al sindaco Ignazio Marino al vertice ieri sera a casa del vice sindaco per vedere faccia a faccia Orfini. Comunque, anche per il Messaggero, Renzi chiude tutte le porte, nessuna trattativa o incontro con Ignazio Marino. Si è parlato a un certo punto anche di posti, qualcuno ha vociferato: Marino vuole una poltrona per chiudere la sua vicenda. Il Corriere della Sera racconta di un incarico possibile al Ministero, oppure un incarico nel campo scientifico in un istituto di ricerca. Sta di fatto che le parti smentiscono, nessun posto concordato, nessuna trattativa, e si va avanti nello stallo più totale. Oh, questa vicenda di Varoufakis, avete capito il comunismo? Il comunismo. Varoufakis è venuto di recente da Fazio, ospite di Che Tempo Che Fa. Cachet, per la verità, è stato lo stesso Varoufakis, con grande trasparenza, a far sapere il cachet. Sul suo blog Varoufakis ha deciso di far sapere a tutti coloro che lo seguono quanto prende, quanto percepisce quando va in giro per il mondo a fare comparsate. E allora lo stesso Varoufakis ha dichiarato: ho preso 24.000 euro per andare in Rai da Fabio Fazio, più viaggio aereo in first class, neanche business, first class, con ovviamente vitto alloggio qui a Milano per l'intervista. 24.000 euro. Capite che i giornali, soprattutto di destra, attaccano dicendo: ma è incredibile, gli sprechi della Rai. Alessandro Gnocchi, pagina 3 del giornale: follia Rai coi soldi del canone, 1.000 euro al minuto a Varoufakis. Per la verità, ieri, da Che Tempo Che Fa, dalla RAI, hanno fatto sapere: non ha pagato la RAI, paga la Endemol, che è la società produttrice della trasmissione Che Tempo Che Fa. La polemica però non è smorzata, anche perché lo stesso Varoufakis fa sapere, scrive Libero a pagina 3 con Fausto Cariotti, che quando è andato alla BBC non ha preso manco una sterlina. Il 24 settembre si è presentato a Cambridge al programma della BBC Question Time, e l'unica cosa che Varoufakis ha preteso in questo caso è stato un biglietto aereo, peraltro in class economy. E quindi, ma come? Alla BBC si accontenta del rimborso spese, questo legittimo, cioè lo invitano, ci manca anche che non gli paghino l'aereo, in economy. E alla RAI viene in first class, 24.000 euro per parlare 22 minuti. Queste sono, come dire, siamo gonzi noi, perché alla BBC se lo sono portato a casa gratis. Come dovrebbe essere per il giornalismo, peraltro, cioè ti invito se sei interessato a fare un'intervista, no? Ma il mondo straordinario della TV non è proprio così. Un caso, i 24.000 euro per Varoufakis in TV, anche il Corriere della Sera dedica una pagina a questo. La RAI dice: noi non c'entriamo perché paga Endemol. Anche il Giorno, una pagina: Varoufakis da Fazio, 24.000 euro, è bufera sugli ospiti a peso d'oro in RAI. E va bene, durerà due giorni questa bufera e avanti tutta. Oh, voglio raccontare una buona notizia, mi sembra, e cioè quello che racconta La Stampa in prima pagina a proposito di compensi, a proposito di lavoro. È la storia di un pensionato, Giuseppe Gambaro, e lavora alla provincia di Novara ed è il dirigente pubblico meno pagato d'Italia, perché prende, pensate, 0 euro. è andato in pensione, è stato un gesto suo, volontario, è andato in pensione e ha deciso: rimango nel settore viabilità per un anno a titolo gratuito. E la storia mi sembra bella, la racconta in prima pagina Claudio Bressani, è l'antifurbetto, viene così presentato, lavoro gratis un anno, poi la storia continua pagina 7, l'antifurbetto di Novara, sono in pensione dalla provincia e lavorerò gratis per un anno. Perché? Perché gli uffici sarebbero rimasti senza guida col cambio delle province, il turnover che manca, eccetera, le province abolende o quasi abolite, eccetera. E allora, siccome la provincia attraversa un periodo di forte difficoltà, io conosco tutto di questi uffici, le gare, le procedure, eccetera, ha deciso di rimanere a lavorare per un anno a titolo gratuito. È la storia di Giuseppe Gambaro, 62 anni, è una possibilità prevista dalla legge 124 del 2015, quella di lavorare gratis per un anno. Ed eccola qui, la trovate sulla Stampa, mentre questa invece è la notizia che certamente vince il premio Mani sul Volante. La notizia che mi fa più incazzare di questa giornata è peraltro il titolo di apertura del quotidiano Avvenire. Il titolo è questo: La scuola negata. È una storia che riguarda una famiglia e una ragazzina di 11 anni, ma tante volte dal racconto, come dico spesso, di alcune storie anche singole si può raccontare uno spaccato di un paese. È una storia di Francesca, per la verità nome di fantasia, 11 anni, disabile, ammalata di AIDS, ospitata in una famiglia della comunità di Capodarco in Campania, alla quale viene negata la scuola. Il titolo infatti di Avvenire è proprio questo: La scuola negata. Francesca, 11 anni, malata di AIDS, esclusa. I genitori affidatari della bambina scrivono al ministro dell'istruzione Giannini dicendo: nostra figlia ha diritto a crescere in classe come tutti. Ufficialmente responsabili della scuola media statale hanno detto di no alla sua iscrizione per mancanza di posti, dopo però averla accettata in un primo tempo, scrive Avvenire. In realtà, dopo la comunicazione dell'importante problema di salute, e cioè malata di AIDS, casualmente i posti non c'erano più. Così ora i due genitori, Fortunata e Antonio, scrivono al ministro dell'istruzione Stefania Giannini. La lettera è pubblicata a pagina 5 di Avvenire. Nostra figlia e la scuola negata, ha un ritardo psichico, è ammalata di AIDS, ma giustamente e comprensibilmente questi genitori scrivono al ministro: ha diritto a crescere in classe come tutti gli altri. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, Rapport, abbia legge giunta da una maniera che nisce una milizia prima in domo, dialetto foggiano. Grande il foggiano! Oh, avete smesso di mandarci le sigle in dialetto, eh? Dovete riprendere per cortesia. 0246524492 è la nostra segreteria telefonica. Mandate le sigle in tutti i dialetti! Mandate la sigla in tutti i dialetti italiani o nel mondo. Potrebbe essere anche le lingue mondiali. Le lingue straniere. Beh, fate come volete, eh? Però mandateci la traduzione e attenzione che ingaggiamo degli interpreti, se mandate degli insulti vi veniamo a beccare sotto casa. Allora, cari ascoltatori, sono un caso le parole di Raffaele Cantone, presidente dell'autorità anticorruzione, sarà nostro ospite alle 8.40. Raffaele Cantone che ieri a Milano ha fatto, come racconta Repubblica, rimaterializzare l'eterna sfida tra Milano e Roma. Nel senso che proprio nel giorno in cui Milano sta per festeggiare la fine di Expo, Roma invece sta cercando di organizzare il giubileo e Roma è in questa situazione di paralisi politica. Ecco che Raffaele Cantone ha detto che Milano si riappropria del ruolo di capitale morale d'Italia in un momento in cui la capitale reale non sta dimostrando di avere gli anticorpi morali di cui ha bisogno e che tutti ci auguriamo recuperi. Per la verità Cantone poi, quando la polemica è montata, dice: volevo solo pungolare Roma, e cioè a dire, appunto, sottolineare, speriamo e ci auguriamo che Roma recuperi gli anticorpi morali. In realtà un po' la frittata era fatta, nel senso che le polemiche finiscono sui giornali, ecco che Repubblica lo definisce lo schiaffo di Cantone, Roma senza anticorpi, il Corriere della Sera idem, i titoli un po' ovunque, il Corriere della Sera va a fare quello che fanno molti giornali, cioè giudizi incrociati, va a intervistare un romano importante che vive a Milano e un milanese che lavora a Roma o ha lavorato a Roma. Sono Andrea Carandini, archeologo romano, da 2 anni e mezzo lavora a Milano. E allora dice: io romano in trasferta nella metropoli del nord vince la normalità, mentre il Corriere della Sera intervista Umberto Veronesi, milanese, storico, professore, scienziato che ha vissuto però a Roma da ministro della sanità. Quando ero ministro ho visto tanta intelligenza, quella è la medicina, insomma giudizi incrociati, Milano, Roma, Roma, Milano. Per la verità Repubblica intervista Alfonso Sabella, che è stato anche assessore alla legalità a Roma, e che è intervistato da Mauro Favale, a pagina 3 di Repubblica dice: a Milano la diagnosi del male va avanti dal 92, cioè l'epoca di Tangentopoli. Roma invece si è scoperta corrotta da quando è arrivato Pignatone a guidare la procura. Mancano gli anticorpi, ha detto Cantone. Cosa ne pensa Sabella? Sabella, ricordate, è stato anche ai nostri microfoni, è un magistrato anche lui. La verità è che contro la corruzione gli anticorpi non ce li ha nessuno. Possiamo dire che Roma si sta curando. Ha fatto la chemio contro il cancro di Mafia Capitale e si è immunizzata. Usa questa espressione Alfonso Sabella, intervistato da Repubblica a pagina 3. Comunque Roma o Milano, Milano o Roma, poi ne parleremo con Raffaele Cantone, non solo di questo, cercheremo di uscire da questa diatriba anche un po' sterile che è finita sui giornali. Oh, la questione dell'Agenzia delle Entrate trova ancora molti spunti sui giornali, perché sapete che c'è tutto, beh, a parte la polemica politica tra il sottosegretario Zanetti che ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi si deve dimettere, poi la vicenda è un po' rientrata, ma rimane sullo sfondo da mesi il fatto che molti dirigenti dell'Agenzia delle Entrate sono stati degradati da una sentenza della Corte Costituzionale perché promossi non per concorso. Allora Libero racconta che è in arrivo forse una sanatoria, per carità non si può chiamare così e per carità diranno che non è così e forse non ce la faranno, ma l'Agenzia delle Entrate è salvata da una sanatoria, è il titolo di pagina 6. Francesco De Dominicis racconta che è allo studio con la senatrice Cecilia Guerra del Partito Democratico un emendamento alla legge di stabilità, quindi da inserire al Senato, per cercare di salvare questa situazione. Ora, come la volete chiamare, condono, sanatoria sulle nomine oppure sugli atti firmati dai dirigenti che rischiano di essere impugnati dai cittadini, in alcuni casi lo fanno e quindi vengono dichiarati fuori legge, sta di fatto che arriva l'emendamento alla legge di stabilità e per cercare di risolvere il caos di questi 800 dirigenti dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale. L'articolo è a pagina 6, chissà se passerà questo emendamento, staremo a vedere. C'è da dire invece che sulle unioni civili il Partito Democratico ancora spinge, perché si sono un po' arenate, ma il PD dice ora ci vuole il voto a inizio dicembre. Tra l'altro c'è un'intervista al ministro della giustizia Orlando, intervistato da Repubblica a pagina 10, intervistato da Diana Milella, dice: ci vuole al più presto la legge sulle unioni civili. Personalmente, tra l'altro, Orlando si spinge oltre, dice: sono favorevole anche alle adozioni per le coppie dello stesso sesso. D'altronde la recente sentenza a Strasburgo ci impone di tutelare i diritti di una parte dei cittadini e farlo in fretta. Dunque Orlando dice sì alle unioni civili e sì anche alle adozioni all'interno delle coppie dello stesso sesso. La polemica, sapete, da 2 giorni su questa vicenda è legata al fatto che al Consiglio di Stato hanno invece bocciato le trascrizioni da parte dei sindaci delle nozze omosessuali contratte all'estero da diverse coppie. Ebbene, la polemica è perché l'estensore di quella sentenza si proclama, se è un giudice, ieri intervistato da Repubblica, si proclama cattolico, dichiarato. Il presidente di quel collegio addirittura è dell'Opus Dei, addirittura nel senso, interpretatelo all'interno di questa polemica. Oggi parla anche lui, sempre con Liana Milella su Repubblica. Si chiama Giuseppe Romeo e dice: sì, è vero, ma io sono al servizio dello Stato, mica della Chiesa, sa? Sono una persona molto schiva, sono abituato a parlare con le sentenze, questa è la premessa che fanno tutti. Poi dice però sta al telefono e fa l'intervista. E rilascia queste dichiarazioni. Sì, certo, faccio parte dell'Opus Dei, sono dell'opera, lo sanno tutti, non c'è uno che non lo sappia, la scoperta dell'acqua calda questa. Ma lei è dell'Opus Dei, dunque, ed è presidente del collegio che ha fatto questa sentenza. E dove sta il problema? Risponde Giuseppe Romeo. In 40 anni dove ho lavorato ho ricevuto attestati di stima a non finire su qualsiasi decisione. Che c'entra l'Opus Dei? Sicuramente io non ho mica consultato il catechismo delle scuole cattoliche prima di decidere sulle unioni civili. Ho deciso in base a un fatto tecnico e sulla correttezza sfiderei chiunque. Nel 94 ho scritto il codice etico del giudice. È l'uomo giudice che deve saper fare la sua professione e non il giudice uomo. Perché le convinzioni non possono prevalere sulle decisioni che sono squisitamente tecniche, come in questo caso. Beh, scusi, ma è stato corretto formare un collegio in cui su 5 giudici 3 sono cattolici? Lei, Deodato, l'estensore, e il giudice Ungari. Ungari è cattolico, risponde il presidente. Io non lo so, con lui di questo non ho mai parlato e non posso dire bugie, sa? Ah, lei è cattolico e dire bugie è peccato. Beh, non le può dire neppure lei, dice Romeo all'intervistatrice. Vale il principio morale. Ma senta, essere dell'Opus Dei non comporta decidere in una direzione? Ma guardi che io non sono un automa. Se ne sarebbe resa conto la gente per cui ho lavorato da 40 anni. Dunque lei è tranquillo? Sì, totalmente. Ho agito con la massima coscienza professionale possibile. Perché non dovrei esserlo? E comunque, si ricordi, abbiamo solo chiacchierato, io non esisto. Quindi, in conclusione dell'intervista, questo giudice Giuseppe Romeo evidentemente non pensava che una chiacchierata con Liana Milella potesse diventare un'intervista su Repubblica. Il dato di fatto è questo, sulle unioni civili si va avanti, dice il PD, e sulle unioni civili Berlusconi dice... Valuto lo schema di libertà di coscienza nel partito. Quindi Berlusconi frena i contrari. Ieri lo ha fatto andando a incontrare i responsabili del partito di Gianfranco Rotondi, denominato Rivoluzione Cristiana. Giuro, esiste un partito in Italia che si chiama Rivoluzione Cristiana, alla cui guida c'è l'ex ministro Gianfranco Rotondi. Va bene, intanto saluto Mauro Meazza, la capolista, stiamo arrivando, tranquillo Mauro. Buongiorno, buongiorno Alessandro, mi tocca precisare che non siamo più noi la capolista. Ah già, è vero, è vero, è vero, è vero. Per qualche ora lo siamo stati, è una soddisfazione. Ora è la Roma la capolista. In questo momento è la Roma che è la capitale, no, la capolista. La capitale del calcio. C'è un po' di confusione sui ruoli di capolista e capitale. Ti volevo dire... sul Sole 24 di oggi molte cose, tra cui ti segnalo l'intervista di Beda Romano a Federica Mogherini, commissario per l'Europa, perché della UE, perché parla parecchio di migranti e si dimostra fiduciosa tutto sommato. I risultati della solidarietà tra i paesi per la distribuzione, per l'accoglienza ai migranti non sembrano granché, ma lei invece si mostra fiduciosa proprio chiacchierando con Beda Romano oggi sul Sole 24 Ore. Oh, poi naturalmente c'è il primo rosso di Volkswagen dopo 15 anni, l'effetto del Dieselgate, lo segnalavamo ieri, e poi so che ti sei appassionato a questa vicenda dei dirigenti delle entrate. Sì, allora ti voglio appassionato. Dire... ne parli spesso però, che hai anche delle questioni personali. No, per carità, no. No, può capitare, non c'è da vergognarsi, E volevo dirti che devi aspettare la sentenza della Cassazione, te lo spieghiamo oggi a pagina 8, te lo spiegano molto bene Marco Mobile e Giovanni Parente, perché le decisioni sulla validità o no degli atti emessi dai dirigenti poi dichiarati decaduti sono contrastanti fin qui, quindi ci vorrà appunto una pronuncia della Cassazione per dire se allora l'atto firmato dal dirigente decaduto è valido oppure no. Sembra che l'orientamento sia che questi atti sono validi. Però leggi solo in 24 ore, Mobili e Parenti ti spiegano come stanno un po' le cose. Oh, hai mica 500 milioni lì? 500 milioni di euro? Sì, in tasca. O da qualche parte nel cassetto della scrivania. No, perché per le province che ti stanno molto a cuore. Sì, servono 500 milioni. Lo segnaliamo oggi su Sole 24 Ore, appunto, come una delle cose che sono uscite dall'Assemblea Generale dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni, c'è questo problemuccio. Allora, abbiamo appreso dal ministro Delrio che l'abolizione va un po' a rilento perché le regioni hanno fatto melina. Il ministro naturalmente non ha usato termini così banali e volgari, però insomma non sono state proprio solerti, ecco, diciamo così. E poi però adesso con la legge di stabilità servirebbero altri danari. Di legge di stabilità naturalmente parliamo molto anche oggi, ma devo andare un pochino di fretta anche perché ti costo più di 1000 euro al minuto, mi sembra. Esatto, mi sembra, no? sì, infatti 4 minuti, 5000 euro, questo è il cachet. 5000 euro facciamo un forfè, va benissimo, posso starci così, mi sembra che sia una cifra adeguata. Allora ti segnalo che oggi con il Sole 24 Ore, Casa 24, naturalmente le notizie dedicate, le pagine dedicate alla casa. Poi c'è stato un incremento molto forte ed è atteso entro la fine dell'anno anche per l'opzione donna, cioè il ritiro anticipato delle donne con il sistema contributivo, te lo spieghiamo naturalmente in norme tributi. E infine, primo sì, ma probabilmente la fisionomia del testo definitiva, alla legge sull'omicidio stradale. È vero. Te lo spiega da par suo Maurizio Caprino su norme e tributi, dove ti parliamo anche di auto aziendale e superammortamento. Ma adesso non vorrei chiederti altri 1000 euro per parlarti del superammortamento al 140%, e quindi mi fermo. Traffico! Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Alessandro Milan, gli è come la lava dell'Etna, incandescente! Non male questa, non male. Allora, come detto sull'immigrazione, vi segnalo, come ha fatto Mauro Meazza, l'intervista a Federica Mogherini fatta da Beda Romano, cioè la rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, l'italiana Federica Mogherini. E vi segnalo anche la notizia di cronaca che riguarda una persona che sembrava arrestata in Pompa Magna, l'uomo che è stato complice della strage, dell'attentato terroristico al Museo del Bardo in Tunisia. Ve lo ricordate? Abdelmajid Touil, marocchino, arrestato alle porte di Milano dicendo è lui, le autorità tunisine hanno detto ha fatto l'attentato, è stato complice, poi è fuggito in barca, è arrivato in Italia. Dopo 5 mesi viene scarcerato, non dico con tante scuse, ma praticamente le accuse su di lui come presunto terrorista del Bardo cadono totalmente. Verrà espulso perché era illegale in Italia, questo sì, è stato mandato nel centro di identificazione e espulsione di Torino. Comunque tutti i giornali titolano Touil non è terrorista, liberato ed espulso. Questo fa anche porre varie domande all'informazione, al mondo dell'informazione. Insomma, tutti noi l'abbiamo definito come il possibile terrorista. E invece oggi anche la stampa: non è il terrorista del Bardo. Milano smonta l'accusa di Tunisi. Il Manifesto mette questa notizia in prima pagina. E la notizia proprio con il titolo terrorista per caso. Abdelmajid Touil non è terrorista. Dopo 5 mesi di detenzione la magistratura milanese scagiona e rimette in libertà il giovane marocchino. In libertà in realtà appunto è finito al centro di identificazione e espulsione di Torino, da dove verrà appunto espulso. Solo velocemente in chiusura devo dire che Vasco Rossi, una pagina del giorno, è stato sentito un'ora di faccia a faccia dalla Guardia di Finanza di Forlì. Lo racconta Maurizio Burnacci sul Giorno, pagina 10. Non è indagato, ma risulta tra i 27.000 italiani che hanno portato capitale a San Marino tra il 2006 e il 2014. La Guardia di Finanza dice è stato un colloquio cordialissimo. non è indagato e ha dato tutta la documentazione insieme alla moglie dei soldi fatti transitare a San Marino negli anni scorsi. Quindi il rocker, tra l'altro su Facebook l'ha detto, è stato solo un controllo e mi hanno detto che è tutto ok. Faccio vedere anche in diretta su Periscope. Oh, è tutto risolto per il cibo. Posso dire che non ne posso più di questi articoli sulla carne, ora arriva anche il caffè. Non ne posso più, basta. Anche perché, guardate, associate quello che sta succedendo sui giornali. Allora, no würstel, no carne, o meglio, no tanta carne, no tanti würstel, no tanti insaccati, no tante costine di maiale, no tante, non tanti agnelli, eccetera. E perché? Qual è la soluzione? Ma certo, ciò che propone l'Unione Europea, che ha dato il via libera, il sì al cibo del futuro, larve, mosche, bachi da seta, alghe magari come contorno, quello sì, scorpioni, beh sì, mica una bella costata la Fiorentina, eccolo qua, due pagine dell'Unità, meduse e cavallette in salmì, ma certo, come no, una bella medusa grigliata, ma facciamocela. Tra l'altro la medusa è fatta al 98% d'acqua. Questo l'ho scoperto studiando con mia figlia in quarta elementare ieri, e quindi una bella medusa grigliata direi che si squaglia tutta. Eccolo qui, l'OMS dopo la carne, il tè su caffè, ma l'Unione Europea ci rifila insetti e alghe, mica una bella costatona, dei begli scorpioni, delle cavallette. Gli insetti a tavola, eccolo qua anche il messaggero, il sì dell'Unione Europea, questo sarà il cibo del futuro. Alghe, insetti, il cibo del futuro. Lasciatemi quello del presente per ora, speriamo del futurissimo. Vabbè, ma siamo alla carta costa, articolo più inutile sui giornali, una pagina del giornale su Corona, anche il giornale. Il cattivo ragazzo è libero di piacere ancora, è tornato a casa da dove lanciava da quel balcone le mutandine alle sue fans. Ma chi se ne frega! Il segnale orario vi è offerto da Pantera col TH, l'ERP di Infracom Italia, anche in cloud. Stufe e caldaie Termo Rossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Ladies and Gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Oh, una bella grigliata di meduse e scorpioni, caro Oscar Giannino, volevo farmi questo questa sera. Il problema è che te la devi fare tutte le mattine presto, perché fai la rassegna stampa, meduse, scorpioni, cavallette, quando ti occupi sui giornali della politica italiana, molto spesso. Per quello, ti obbligano già a fare questo tipo di scorpacciata, scusa la battuta, però. Ero già sul cibo del futuro, vabbè, ma non arriverà mai questo futuro. Proteine con le antenne, come dico io, mio Dio. Allora, caro mio, che Oscar, che santo è? Oggi è un santo che ci dice molto. Perché, ah sì? Eh sì, perché certe volte io, quando non le conosco tutte le tre sante, no, leggo il nome di qualcuno e l'approfondisco. Oggi è Sant'Ermelinda, che uno dice... Ermelinda. Allora, questa Ermelinda, che nel Brabante ricca, molla la famiglia e si dà ai poveri, mm-hmm. in realtà è lì, è collegata a un culto di acque che... guariscono gli occhi. Allora, secondo me, oggi servirebbero al sindaco Marino, un po' di gente, guardare la vita con un altro guardare occhio. La realtà. Quindi Sant'Ermelinda li ispiri, per così va dire. Bene, Sant'Ermelinda li ispiri e guarisca loro gli occhi, diciamo così, perché beh, insomma, mi pare aprano gli occhi sulla realtà. Perché io non so cosa hai capito tu, ho sentito anche la rassegna stampa, però non si capisce per l'ennesima volta. Non si capisce volta. Che cosa voglia fare Marino. Ci sono due versioni, il Corriere della Sera l'ha buttata lì a un certo punto, anche se smentita. Sta mica negoziando, che ne so, la presidenza di un ufficio di qualche istituto scientifico, per esempio. Però smentito, non abbiamo parlato di... O forse vuole semplicemente presentarsi con la fascia tricolore il 5 novembre al processo, per Mafia Capitale. Cioè un'uscita con onore, non si sa. Mi pare di capire però che, adesso, con tutto rispetto, anche la delegazione Dem che si è riunita nel loft, perché sappiamo tutto del loft al del loft, vice sindaco, sappiamo che cosa hanno mangiato, gli spaghetti al pesce, sappiamo il vino che hanno bevuto, ovviamente. Però detto questo, mi pare che la consapevolezza dei guai di Roma non ci sia da nessuna delle due parti, perché la commedia oramai, mi dispiace usare questo termine, non voglio mancare di rispetto a nessuno, su trovare quello che dice il Corriere, che tu ricordavi, o qualunque altra cosa, comunque elude la sostanza. Ma poi dovrebbero trovare... Marino farebbe tutto questo per poi ritrovarsi tra tre mesi a capo di un istituto, la gente dice ecco, voleva solo questo. No, non voglio pensare che sia così. Non lo so, se è così è un altro passo di fronte al dire alla città non siamo all'altezza dei vostri guai, ma tutti dico però. Però io dico Marino, resisti, perché per vedere l'effetto che fa. Devo dire che un altro che alimenta la stanca fantasia dei giornali, perché oggi paginate intere, aperture intere dei giornali risolte grazie alle parole di chi poi sarà il nostro ospite. Sì, Raffaele Cantone, che ha detto prima, poi ha smentito, ha detto ma io volevo solo pungolare Roma, però di fatto ha detto che Milano si riappropria del ruolo di capitale morale, e perché in questo momento la capitale vera ha qualche difficoltà. E perché a Roma mancano gli anticorpi. Gli anticorpi, a che si riferiva gli anticorpi? Non si riferiva credo al Papa, se si riferisse al fatto che nell'interno delle pubbliche amministrazioni, delle dirigenti, dei funzionari, via via, e anche nel corpo della città e dei suoi corpi intermedi, manca questa cultura della legalità diffusa. Gli anticorpi sono quelli. Anche perché qualche giorno fa, un'altra cosa che mi ha colpito, chiederemo a Raffaele Cantone alle 8:40, ha detto le persone per bene nella pubblica amministrazione non fanno carriera. Non fanno carriera. Ma accidenti, io avevo qualche già sospetto. No, ho capito, ma sancito così, scolpito nella pietra dal capo dell'anticorruzione, non è... fa impressione. Ma fa ricordati impressione. Che quando l'assessore uscente, credo, se capiamo bene, al traffico Esposito di Roma, disse la mia prima impressione in queste poche settimane è che funzionari, dirigenti, dipendenti, qui nel mio assessorato il livello di collusione, ha detto testualmente, è così elevato che anche l'assessore, cosa volete che faccia? E comunque chiederemo a Raffaele Cantone, non vorremmo buttarci nella disfida meglio Roma, meglio Milano, telefonateci 800 24 0024, anche perché io da piemontese prendo la mia meglio Torino, oggi. La vera capitale è Torino, storica capitale. No, Torino poi su, ci sarà Napoli con la capitale dell'unificazione. Torino ha fatto un guaio, però la notizia di oggi, una di quelle buone, segnalato ovviamente dalla stampa, che è Torino Piemonte centrica, però questo dirigente a Novara, dirigente responsabile delle strade della provincia di Novara, le province non ci sono più ma ci sono ancora, e Alessandro ci ricorda sempre a che settimana siamo della battaglia per abolirlo, esatto. Però questo dirigente ha accettato di lavorare per un anno senza stipendio. Gratis. Ecco, così mi hai bruciato il mio Oscar. Viva Giuseppe Gambaro, sì, che non sarà piemontese d'origine ma in Piemonte sta. Vedi gli anticorpi effettivamente. Ma caro Oscar, un idolo sicuramente, beh, un po' tu lo stimi e ce l'hai già detto, è diventato al centro di tutte le pagine di oggi, è lui con 24.000 baci. Non Celentano. Varoufakis. Yannis Varoufakis, che si è beccato 24.000 non baci, sì, euro, ma euro per venire da Fazio. Invitato. E si è beccato anche il viaggio pagato in prima classe. E che, siccome è una persona che io apprezzo tra le tante cose anche per la trasparenza, non condivido il suo pensiero, però ha un bel modo di fare. Lui pubblica i contributi che riceve se va a fare conferenze in giro per il mondo e chi sostiene le spese di viaggio in ogni occasione. Grazie alla sua trasparenza, noi sappiamo che Fazio, la RAI, eccetera, lo ha pagato 24.000 euro dopo aver pagato le tasse, quindi sono netti quei 24.000 euro all'azienda, sono costati di più all'ordo, e gli ha pagato la prima classe. La BBC, per invitarlo, zero sterline. E viaggio in economy. Allora, questo ci fa capire l'importanza della BBC rispetto a quella della RAI. Vabbè, ma non vogliamo, dopo ci accusano, attaccate la RAI. No, attacchiamo la RAI. Diciamo, restiamo sul punto. Cioè, ma io, tra l'altro, mi sono chiesto, Oscar, va bene, in TV sappiamo che succede, ci sono i cachet eccetera, però ma dov'è il giornalismo? Cioè Varoufakis a questo punto accetta di andare in una trasmissione rispetto a un'altra perché stima quella trasmissione eccetera, o perché viene pagato di più? No, perché viene pagato di più, tanto è vero che punto. Perdona, si mi vede tolto, il metro, mi tolto ma il no, ma si vede il metro, la BBC che è una trasmissione di punta, dove è andato come gli interessava e sa che zero, ci va per zero pounds. E lì dice, boh, chi è lei? Che cosa, dove siete? Chi non sei? Ho capito, quanto che pagate? Tempo? Allora vengo. What is the weather? What, che tempo che fa? Cos'è? Vabbè, sta di fatto che tutto ciò riporta alla luce il canone della RAI. Tutti i giornali oggi dicono paghiamo 24.000 euro soprattutto e noi paghiamo sappiamo, il canone. Pagheremo il canone, lettera, l'abbiamo già detto, vedremo quanti problemi ci saranno. Non dirlo però, così, pagheremo. Perché c'è in legge di stabilità, no, verrà approvato di corsa quella norma. No, certo, quindi. Ma lo sai che molti italiani, adesso lo fai facile, pagheremo il canone in bolletta. Non è detto che tutti lo pagheranno, però vabbè. Vedremo. Però detto tutto questo, la RAI ha continuato a dirci, no, noi non vi diciamo quanto paghiamo le star. La RAI ci ha già detto che la trasparenza ce la scordiamo. Però insomma, trovi scandaloso il fatto che 24.000 euro per una persona che peraltro non pagata proprio dalla RAI ma dalla Endemol, quindi dalla casa di produzione, che è pagata dalla RAI, però, che è pagata dalla RAI, inutile che adesso raccontiamo che nella TV dove noi già paghiamo il canone, cioè è un legame che trovi oppure... Mi limito a dire che la BBC non gli ha dato un pounds e noi invece facciamo così e non abbiamo diritto di saperlo, quindi grazie Varoufakis che ci informi. Esatto. Insomma. Sì, in tutto questo sì, io trovo normale che Varoufakis vada in giro per il mondo, ma sapete quanto prende un ex presidente americano che va in giro? Cioè arrivano a €1 milione anche esatto, a botta, esatto. Voglio dire $1 milione. Perché è il loro parere, lo vuoi sapere? Lo vuoi sapere, lo paghi. Non c'è niente di male in questo, basta che si sappia. E cioè, chi prende questi soldi li dichiari, e se si tratta di soggetti pubblici che li pagano, li dichiarano anche loro, sono i soldi dei contribuenti. E invece no, nel nostro paese, capito? Vabbè. Senti, caro Oscar, c'è un ascoltatore, è il primo che ci chiama, Marino da Trento, che ci vuol dire che cosa? Buongiorno Marino. Buongiorno, mi chiamo Mario veramente. Noi a furia di pensare al sindaco nulla. Di Roma, tutti Marino. Se abbiamo il sindaco di Roma proprio in testa. No, non sono sindaco, io sto chiamando solo in qualità di cittadino onesto, sì. Ecco, che ormai si è rimasti in pochi. Ecco, io mi sono sentito molto offeso dalle dichiarazioni che ha fatto l'altro giorno il nostro amico Renzi, no? Il quale mi viene a raccontare che se noi troviamo un ladro nella pubblica amministrazione dobbiamo cacciarlo senza perdono, ma per l'amor di Dio, noi dobbiamo cacciarli i ladri, gli dobbiamo dare 30 anni di carcere, dica questo al signor Renzi, sì. Che non è stato eletto col mio voto. Vabbè, ma non sta dicendo capisce. Più o meno la stessa cosa di Renzi, non lei. Non si capisce da chi è stato eletto. No, e, vabbè, dobbiamo, e questa è un'altra questione. Scusi, mi lasci finire. Sì. Dobbiamo cacciarli i ladri, gli dobbiamo dare 30 anni di carcere, però effettivamente devono fare 30 anni di carcere, sì. Quelli che rubano alla pubblica amministrazione, e li devono fare però 30 anni. Vabbè, ma e lei, poi dobbiamo andare a riprendere i soldini che hanno rubato. Ho capito, ma lei Mario capisce? Sta dicendo più o meno, adesso non è che sta dicendo quello che ha detto Renzi, cioè cacciamoli e lei li vuole in carcere invece, questa è la differenza. Però. No, ma Renzi sta facendo tutto una fumaiola vabbè. Per distrarre, cioè l'Italia è in mano alla corruzione, è in preda, ormai è tutto corrotto il sistema pubblico. Dobbiamo cacciare i ladri, mandarli in galera e restituire. Vabbè, i soldi, ma ripeto statali. Venendo al punto, che sta dicendo quello che ha detto Renzi, cacciarli, però vabbè, insomma, la ringraziamo Mario per questo suo intervento. A proposito del presunto o meno populismo di Renzi, mi ha molto colpito oggi sul Corriere della Sera Beppe Severgnini, che fino a questo momento è stato, insomma, sostenitore, no? di Renzi, che scrive un editoriale dicendo Renzi ormai inizia a fare il populista. Allora c'è qualche segnale, non è più solo la vecchia opposizione intellettuale e dentro il PD a sparare contro Renzi, a cambiare idea. Col segnale di Beppe Severgnini nel mondo dell'informazione italiana è un piccolo segnale. A proposito esattamente del tema che diceva il nostro ascoltatore, cioè Renzi si fa bello con temi populisti, per così dire. Caro Oscar, vogliamo sentire Sergio dalla provincia di Pavia? Sergio, buongiorno. Eccoci, Sergio. Buongiorno. Io seguo le vostre trasmissioni perché sono un pensionato, come altre trasmissioni di intrattenimento e così questo via. Ci fa piacere. Devo dire che rimbianco molto la vecchia stampa, dall'intro Montanelli a Bocca, a Biagi, come li rimpiango, anche se non condividevo molto le loro idee. E cosa ci vuol dire? Voglio dire che venendo alla sua trasmissione, che seguo, ripeto, giornalmente, va bene, vedo tutti i giorni, sento tutti i giorni Marino. Ma mi fate la cortesia di parlare una volta di Alemanno che è inquisito per corruzione e che ha portato a questa situazione. Voi dovreste parlare tutti i giorni di Alemanno, non di Marino. E io non sono per Marino, Ma Sergio, non è questione. Non è possibile che non trovo mai una trasmissione su che Alemanno. Parla di Alemanno, che è inquisito, è chiaro, per corruzione e che non ne viene mai citato. Ma c'è il processo. Portato a questa conclusione. Va bene, Sergio, va bene. No, la fermiamo anche perché dobbiamo andare poi in pubblicità e dare gli Oscar. Ma guarda, io di fronte a questo, grande stima, però è il famoso tifo contrapposto. Forse sfugge a Sergio che nell'intreccio delle indagini e degli soggetti colpiti da provvedimenti cautelari ci sono ex assessori e coordinatori anche del PD, capisce? È verissimo quello che lei dice del giudizio complessivo, Alemanno ha avuto implicazioni fino a pochissimo tempo fa, c'era l'ipotesi di reato per associazione mafiosa anche per lui. Detto questo, lì la cosa è totalmente trasversale, questo è il punto. Allora, o questo vogliamo capire, oppure ognuno è legittimato a tifare per tribù destra contro sinistra. L'ascoltatore però diceva effettivamente Marino in questa rete non è finito, personalmente. No, è sfiduciato, caro ascoltatore, dalla sua maggioranza e dai vertici del PD. Di cosa vuole? Vogliamo dire che sono i vertici di Fratelli d'Italia? Che lo sfiducia, non lo so. Ma infatti. Allora, diamo l'Oscar velocemente, tanto il mio l'abbiamo già dato a questo pensionato. Dai, l'Oscar. A questo pensionato della provincia di Novara che lavora per un anno gratis. Viva per l'ingegner la Gambaro. A lui. Invece do un Oscar dell'opacità. Ieri era la giornata del risparmio e sentir dire con la difesa d'ufficio dal ministro dell'economia: la Banca d'Italia si è comportata benissimo su tutte le vicende degli scandali bancari italiani, quindi bisogna difenderla, non mi piace. Quindi io segnalo attraverso l'Oscar questa cosa, perché stiamo parlando di vicende che riguardano molti miliardi dei risparmiatori italiani. Per la prima volta la Banca d'Italia ha pubblicato una memoria pubblica di autodifesa su come si è comportata sulla Banca Popolare di Vicenza. Secondo me quella memoria fa acqua da tutte le parti, non c'è tempo per approfondire. Io avrei apprezzato ieri, nella giornata del risparmio, un ministro dell'economia un pochino più capace di distacco piuttosto che difendere un istituto che ha dovuto aspettare la BCE per scoprire quello che non va in tante banche italiane. Questo allora è il tuo Oscar. Noi tra pochi minuti con Raffaele Cantone, che ha detto Milano si riappropria del ruolo di capitale morale d'Italia perché a Roma gli anticorpi in questo momento mancano. State con noi. Eccoci qua, sono le 8:39 minuti, caro Oscar Giannino, siamo in compagnia di Raffaele Cantone, che è il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Ben ritrovato, presidente, eccoci qui. Buongiorno a lei. Perché deve chiarire un po'. Lei oggi, secondo me, non voleva finire su tutte le prime pagine dei giornali per questa vicenda. Ha detto il mio è stato un pungolo per Roma. Però ecco, ci dica un po' come è nata questa vicenda. Poi voglio dire, diciamo, ovviamente. Io non ho detto una cosa in cui credo profondamente, che ovviamente proverò se mi dà la possibilità di spiegare, ma diciamo non intendevo assolutamente scatenare un putiferio o peggio ancora consentire qualche interpretazione politica. È l'Italia dei campanili, Milano, Roma. Sì, ma l'Italia anche, diciamo, di chi dà per scontato che ogni cosa che si dice ha un retropensiero. Qui non c'è nessun retropensiero. Allora, se mi dà la possibilità, provo a spiegare. Ci spieghi prima cosa di tutto, voglio dire una cosa. Io considero Roma la mia seconda città, è una città nella quale lavoro dal 2007, che ogni giorno scopro per essere sempre più bella di quanto avessi anche lontanamente immaginato. È una città alla quale mi sento legato, poi io sono meridionale, mi ritrovo molto molto in molti aspetti anche della città, che, diciamo, senza voler fare una valutazione negativa, in senso non negativo, è una città anche lei un po' borbonica come la mia. Quindi voglio dire, io mi sento... Per amarla finisce per aggravare, però dicendo Borboni. Sto scherzando, sono Giannino, no, prego. Diciamo in senso positivo, certo, diciamo, in senso positivo. Io considero Napoli una città borbonica. Voglio dire, è una città quindi che amo e ovviamente credo fra l'altro che i romani siano tutto sommato una grande risorsa di questo paese anche nel loro modo di saper affrontare le giornate, la realtà, il quotidiano, il turismo. Quindi voglio dire, nessuna valutazione negativa nei confronti di Roma. E ovviamente un'ulteriore precisazione, io non voglio affatto, quando dico che Milano è diventata capitale morale, dimenticare che Milano ha problemi giudiziari rilevantissimi, cioè settimana, pochi giorni fa è stato arrestato il vicepresidente della regione per fatti gravi relativi alla sanità, però il discorso che io ho fatto è questo, e ovviamente in questo io credo profondamente. In un momento di grande difficoltà come quello dell'Expo, in cui c'era davanti una sfida particolarmente importante, la città si è stretta intorno a questa sfida ed ha messo in campo una serie di anticorpi in cui si è creata una squadra. Oggettivamente era più facile perché la vicenda era molto ridotta, riguardava semplicemente un segmento che era la società Expo, anche se riguardava fatti gravi, ma diciamo ha messo in campo una serie di sinergie che ha consentito a Expo di partire. E perché a Roma, lei non li vede questi anticorpi al momento? Perché lei l'ha detto, non ci sono gli anticorpi. Assolutamente, io ho detto che a Roma non si vedono ancora gli anticorpi, ma mi scusi, diciamo non c'è bisogno di fare un'analisi sociologica particolarmente rilevante. Se noi guardiamo che cosa c'è nelle ordinanze cautelari, c'è da rabbrividire. Il signor Buzzi racconta, diciamo, di veri e propri assalti fatti in consiglio comunale da soggetti delle istituzioni che chiedevano soldi, posti di lavoro, con situazioni che, parliamoci chiaro, difficilmente si verificano anche in Calabria o in Sicilia. A meno che Buzzi non dicesse una bugia. No, aspetti, consiglieri comunali di diversi partiti confermano quello che c'è nell'ordinanza, cioè che erano lì i rappresentanti delle diverse cose, erano anche nella sala del consiglio. Ecco. E perciò dico, stiamo parlando di un quadro che emerge, che diciamo ha riguardato 5-6 anni in modo clamoroso, di soggetti che sono stati, diciamo, fatti segno di attività corruttive, se vogliamo essere, se semplificare, quindi un quadro di partenza che è un quadro molto grave. Che cosa accade dopo? Perché il problema è il dopo. Una città squassata da una vicenda del genere, diciamo, noi non dimentichiamo che dicembre dell'anno scorso si verifica la vicenda dei vigili urbani, cioè una città che ovviamente è sotto i riflettori del mondo per una vicenda di cui parlano i giornali di tutto il mondo. C'è una storia strana. Ora, io sono un garantista e quindi penso che quella sera ci sia stato un virus generalizzato, però in una città, diciamo, con quei problemi nessuno si è fatto carico al limite di uscire con la febbre a 37,5, perché io dopo ho scontato che tutti fossero malati. E andiamo avanti, perché voglio dire, la prima gara del Giubileo noi l'abbiamo bloccata per un cavillo formale, ma lo stesso, il giorno dopo che noi l'abbiamo bloccata, hanno arrestato due persone che avevano pagato una tangente a un funzionario pubblico 15 giorni prima, cioè malgrado le vicende di Roma Capitale, malgrado a Roma ci siano più, ogni giorno più finanzieri che dipendenti comunali, questo non è servito. Ma non li vede gli anticorpi? Non li vede. No, aspetti, io ne vedo alcuni, perché voglio aggiungere, ovviamente io ho visto un grande impegno da parte soprattutto degli assessori ultimi. Io ho avuto contatti con Sabelli, con Causi, con Pucci, che ce l'hanno messa tutta, ma noi abbiamo verificato una situazione difficilissima sul piano degli appalti. Abbiamo scoperto, per esempio, gli ultimi giorni che erano partiti degli appalti sul Giubileo fatti dall'ATAC, di cui nessuno ci aveva messo a conoscenza. Abbiamo chiesto al Comune e il Comune non sapeva neanche dell'esistenza di questi appalti. Posso chiedere a Cantone, aspetti, su questo punto, ma lei ci crede che il Comune non lo sapesse? Mi scusi, abbiamo avuto un assessore abbiamo avuto un assessore al bilancio, Silvia Scozzese, messo alla porta. Messo alla porta perché diceva: io non sono d'accordo, signor sindaco, con questa amministrazione, non con Alemanno, di cui sappiamo le cifre, le abbiamo lette nella relazione proprio dell'ANAC, di quanta percentuale di appalti affidasse senza gara di evidenza pubblica, però anche con questa amministrazione, Silvia Scozzese, tecnico, non di partito, dice al sindaco: no, la percentuale di gare senza evidenza pubblica resta troppo elevata, io non le firmo queste cose. L'hanno messa alla porta. Allora, bisogna crederci sul fatto che davvero non lo sapessero anche dall'ATAC, perché se l'hanno messa alla porta Silvia Scozzese e il governo poi gliel'ha rimessa adesso come commissario che vigila sulla gestione separata commissariale, quindi vuol dire che il governo sa bene dalla Scozzese che la Scozzese tentava di vedere, di dare evidenza al sindaco e ai colleghi di giunta che queste cose non andavano, che abbiamo ritrovato poi grazie all'ANAC nelle vostre relazioni, e vuol dire che il comune le sapevano. Ma guardi, io devo dire, io diciamo credo nella vicenda di cui mi riferisco che effettivamente il comune non sapesse, ma cambia abbastanza poco, perché diciamo se sapeva c'è una responsabilità, ma se non sapeva è il segno di una macchina fuori controllo. Allora io voglio dire, io vedo anticorpi, vedo un impegno da parte di una serie di persone, ma questi anticorpi ad oggi non riescono a fare sistema. Dottor Giannino, noi abbiamo in questo momento, il Papa ha dato una grande occasione alla città di Roma, così come è capitato per Expo una grande occasione alla città di Milano. C'era l'occasione di svoltare, c'era l'occasione di far dimenticare che cosa era avvenuto, mettendo a sistema le energie migliori che ci sono. Io le assicuro, all'interno del Comune di Roma ci sono funzionari e dirigenti di primissimo valore e di gente che sa fare benissimo il mestiere, e fra gli assessori io vedo un grandissimo entusiasmo e grande voglia di fare. Il Giubileo poteva essere la grande occasione per mettere a sistema e per dimostrare quello che io dico essere avvenuto. Ma perché ne parla al passato? Poteva essere, cioè perché è già fallita secondo lei questa occasione? No, non è fallita, però diciamo ad oggi fa grande fatica. Io sono, mi auguro che ci sia ancora una svolta, ma voglio dire, io non ho verificato e non sto facendo analisi sociologiche né tantomeno analisi politiche. Voglio dire, il mio non è nessun intento che andava al di là di dire quello che ho detto. Lo faccio da presidente dell'autorità anticorruzione volendo fare questo lavoro e basta. Nessun retropensiero è giustificato e giustificato. No, no, certo. Però dico, da presidente dell'autorità nazionale anticorruzione, noi ad oggi abbiamo visto una serie di appalti, abbiamo fatto fatica a farli partire perché in ogni appalto spesso c'erano gli stessi errori ripetuti. Io sono convinto in buona fede e poi mi chiedo, se il governo non avesse visto, avesse previsto la nostra presenza, noi avremmo trovato la prima gara aggiudicata a una ditta il cui imprenditore sarebbe stato arrestato il giorno stesso in cui verificava l'aggiudicazione. Allora io credo che questo pungolo che io devo ad una città che diciamo considero la mia seconda città era doveroso. Sì. Poi detto con franchezza io non mi aspettavo neanche lontanamente. Oggi avrà visto i giornali. Ma è questo, è uno comunque, dei grandi classici. Lei dice nessun retropensiero vuol dire non vuole fare il commissario di Roma, dovesse cadere Marino poi no, non voglio fare. Non ci penso assolutamente. Fare il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione fino a che avrò la possibilità e comunque fino ai 6 anni in cui scade il mio mandato. Però perché ha detto qualche giorno fa, l'ha detto lei, le persone per bene nella pubblica amministrazione non fanno carriera? Questa frase mi ha molto colpito. Ma io l'ho detto ieri a Milano, nell'ambito sempre di un contesto, ieri è stata una giornata molto intensa a Milano, ho detto che molto spesso nella pubblica amministrazione, perché noi spesso ci lamentiamo diciamo delle questioni che riguardano la burocrazia e la dirigenza, ma mi scusi, che cosa è accaduto nella vicenda dell'ANAS? Se oggi, diciamo, io oggi non ho ancora visto i giornali, ma ho letto l'articolo di Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. Ovviamente si tratta di cose che avevo già intravisto leggendo l'ordinanza cautelare. Ma cosa accade in una dirigenza di un ente che si occupa di strade? Che la politica interferisce sistematicamente nei meccanismi di promozione. Allora, mi scusi, ma cosa c'entra la politica con i dirigenti dell'ANAS? Cioè, e diciamo le viene il dubbio che la politica interferisca rispetto al merito? Ovviamente io non intendo dire affatto. No, ho capito cosa dice. Ci mancherebbe. Però altro, in questi diciamo, anni le posso dire che diciamo per la verità nella pubblica amministrazione io ne faccio parte e ritengo con onore, perché sono onorato di far parte della pubblica amministrazione, la maggior parte delle persone sono per bene. Ma quanta gente diciamo è costretta anche a passare sotto queste forche caudine pur di dimostrare il suo valore, il suo merito? Sì, però in questi anni si verifica anche una cosa diversa da questa, cioè sono dirigenti amministrativi, talvolta anche funzionari o di livello più basso, che si mettono in proprio rispetto alla politica e alle improprie inframmettenze della politica, che lei fa benissimo a denunciare, ci sono ancora, però si organizzano come centrali di inquinamento in proprio. Per esempio all'ANAS la funzionaria che è sotto indagine tentava di fare leggere, la dirigente ha ragione, tentava di fare leggere i figli, nipoti e parenti che facevano politica oramai in famiglia da parecchio, decidendo lei chi pagare e chi no nelle aziende che avevano svolto i lavori e così via. E decidendo lei, lei a chi diciamo... presentare il ministro, concludo, quando l'ex assessore, quasi oramai, Esposito al traffico a Roma, ci dice: io nelle poche settimane in cui sono stato assessore ho toccato con mano che la connivenza riguarda la dirigenza ma anche i funzionari e i dipendenti. Allora, in quel caso, viva l'ANAC, ma come si fa con i supercantoni a risolvere questo problema di connivenza, infatti, ai diversi livelli amministrativi? Ma infatti non si può risolvere, io non credo affatto di avere questa bacchetta magica. Io sollevo un problema perché adesso io credo che c'è una legge che riforma la dirigenza, che è una grande occasione. Tra l'altro io credo che quella legge va nella giusta ragione, cioè nella giusta direzione. Io sollevo un problema che è un problema di carattere generale, non ho nessuna intenzione di intervenire né tantomeno di offendere genericamente i dirigenti pubblici. Però la vicenda ANAS, mi scusi, è una vicenda indicativa, perché è vero quello che lei dice, che la cosiddetta dama nera faceva le cose che dice lei. Però la dama nera si faceva accreditare dal mondo della politica per poi ottenere all'interno dell'ANAS una collocazione migliore. Quindi diciamo, questo rapporto bionico, che è un rapporto che va esisteva. Io credo che noi dobbiamo, per migliorare la classe dirigente del nostro paese, recuperarla in termini di indipendenza, nel senso che una dirigenza che non sia, che sia indipendente rispetto al potere politico, fermo restando che il potere politico può rimuoverla Ha il potere di indirizzo, le patologie, rappresenta una garanzia per tutti. Senta, ma lei ha i colleghi, ai suoi colleghi magistrati, che come si è visto a Bari all'ANM, alcuni di quei colleghi, di quelli che fanno vita associativa, le hanno rivolto molti strali perché dicono: Cantone si è troppo avvicinato alla politica, ha smesso l'autonomia e l'indipendenza, è passato in un altro campo. Cosa risponde? Ma io sono rimasto molto perplesso, devo dire, diciamo, sto ancora come il pugile che ha avuto un pugno e non si è ancora ripreso, perché diciamo, ho letto e riletto le dichiarazioni del segretario dell'ANM, devo dire, mi hanno lasciato molto perplesso. Io volevo fare un gesto anche diciamo immediato, eclatante, di uscire dall'ANM, ma poi ci ho riflettuto, voglio diciamo riflettere, perché l'ANM ci sta ancora riflettendo, però. Cioè lei potrebbe uscire dall'ANM. Ci sto riflettendo, perché l'ANM è anche casa mia. Io mi sono iscritto all'ANM il secondo giorno che sono entrato in magistratura, quindi perché dovrei uscire? Però volevo porre un problema, diciamo ci rifletterò, non è un'urgenza, non è uno degli ultimi problemi. Devo anche dire che diciamo io ho seguito molto distrattamente il congresso di Bari. Però le ha fatto male queste critiche, ha fatto molto male per una ragione, perché diciamo il segretario, da quello che ho letto sui giornali, perché io non ho avuto altre fonti né altro. Sì. Lui sostanzialmente dice che io ho fatto un attacco al correntismo e poi dice questo attacco non può venire da chi ha scelto vie diverse. Ora, a parte il fatto che, voglio dire, all'interno della magistratura c'è gente che fa politica e continua a fare il magistrato. Io non ho mai fatto politica nella mia vita. Sono stato nominato con l'unanimità del Parlamento. Rivendico la mia indipendenza ogni giorno e credo di essere indipendente al pari di quanto fossi in magistratura. E le dirò di più. Io in questo periodo posso garantire di aver avuto un'indipendenza persino maggiore. Nessuno, e le giuro sui miei figli, nessuno mi ha mai chiesto di dire o di fare una cosa. Nessuno. Sì. Io sotto il profilo personale rivendico un'indipendenza che non ho mai avuto. Ma voglio anche dire che ha ragione il segretario dell'ANM. Ma il merito? Il merito dell'accusa. Cioè, lui ha utilizzato un argomento, diciamo... è un argomento formale, direi, non se ne abbia male, avvocatesco. Si fermi qui, Cantone, allora, perché ci ha dato una risposta chiara sull'idea. Intanto non voleva finire anche sui giornali, questo l'abbiamo capito. Però per questa vicenda ha pensato anche di uscire dall'ANM. Intanto la ringraziamo. Grazie, Raffaele Cantone, presidente dell'autorità anticorruzione. Ci fermiamo qui, caro Oscar. Ma sì, continuate con la 24. Allora,